Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Dicembre è da sempre il mese deputato per i bilanci e per cercare di analizzare e capire qual è stata l'attività dell'Albo degli autotrasportatori, l'organismo che sovrintende il complesso mondo dei trasporti in Italia, è nostro ospite oggi il vicepresidente Silvio Faggi, che rappresenta le associazioni di categoria presenti all'interno dell'Albo. Buon pomeriggio Faggi e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, cominciamo con il raccontare che cos'è questo Albo degli autotrasportatori. Perché è importante che questo organismo sia sempre più forte e soprattutto coeso? Beh, che l'Albo sia forte e coeso è importante per vari motivi, ma uno in particolare, a mio avviso, va messo in evidenza. L'Albo è l'unico organismo all'interno del quale, oltre alle associazioni dell'autotrasporto, sono rappresentati anche tutti i ministeri che in qualche maniera hanno a che fare con il nostro mondo. Da Palazzo Chigi, il Ministero dell'Interno, Sviluppo Economico, Giustizia, Lavoro, Politiche Agricole, Ambiente, Tesoro, le Regioni. Partecipare ai lavori di questo organismo in maniera non coesa, a volte rissosa e divisi, per noi associazioni è un problema. Purtroppo non sempre riusciamo a far emergere le peculiarità di questo organismo, che è, ripeto, l'unico momento di incontro vero, reale e produttivo fra la politica e le associazioni che rappresentano il trasporto. Ecco Faggi, nonostante questa, come dire, dialettica molto forte, molto sviluppata anche e soprattutto tra associazioni di categoria, il 2016 è stato un anno importante per l'Albo degli autotrasportatori, che ha portato a casa un risultato molto atteso, quello del portale della regolarità. In pratica adesso possiamo sapere vita, morte e miracoli, come direbbe qualcuno, di un'impresa di autotrasporto grazie a questo incrocio di banche dati. Di che cosa si tratta? Questa è veramente una grande conquista, il fatto di aver messo in relazione fra di loro ben 6 banche dati pubbliche, cosa che fra l'altro è abbastanza innovativa, e dall'incrocio dei dati di queste banche pubbliche è possibile oggi, come dice la legge, andare a verificare se l'impresa di autotrasporto è o meno regolare. Abbiamo anche la possibilità, ovviamente, proprio grazie a questo incrocio, di far emergere un po' tutti i tipi di irregolarità, al punto che, nonostante che per anni ci si sia provato inutilmente, oggi siamo riusciti anche a eliminare, a mettere fuori dall'albo ben 20.000 imprese su 100 e qualcosa mila che proprio dall'incrocio di questi dati sono risultate non regolari. E ricordiamo che mettere fuori dall'albo significa che questa impresa non può lavorare. Esattamente, e se hanno ancora dei camion intestati le targhe gli vengono ritirate e quindi messe nella impossibilità di continuare a circolare e a svolgere la professione. Parliamo un po' anche di futuro. Quali sono le politiche da intraprendere ancora per soddisfare i nuovi bisogni delle imprese? All'albo è chiamato a svolgere una serie di compiti, anche questi tutti ben definiti dalle norme. Non è una super associazione, per essere chiari, ma un organismo al quale sono demandati alcuni compiti specifici. Ne vorrei ricordare qualcuno molto brevemente. Uno di questi, ad esempio, uno dei più importanti, se vogliamo dire così, oltre a quello che dicevamo prima, e vale a dire la verifica della regolarità delle imprese iscritte, è quello legato alla formazione degli addetti dell'autotrasporto. Anche su questo l'albo, seppure con una serie di difficoltà, alcune anche oggettive legate al nuovo codice degli appalti e quant'altro, è finalmente riuscito a licenziare un percorso formativo molto interessante, finalizzato alle imprese di autotrasporto, che vedrà la luce presumibilmente già nei prossimi giorni, con la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Ecco, c'è anche un nuovo progetto di cui si sta parlando solo ora, che riguarda i giovani e quindi la formazione dei giovani che vogliono avvicinarsi a questo mondo, molto spesso dipinto come un mondo complesso e difficile, ma che è un mondo che in realtà può dare delle soddisfazioni lavorative importanti. Sì, noi stiamo assistendo di fatto ad una perdita di interesse da parte dei giovani ad avvicinarsi a questo mondo, a questa attività. È un'attività che, nonostante tutte le difficoltà che ci sono e che toccano non solo il mondo dell'autotrasporto ma un po' l'economia in generale, chiaramente le difficoltà ci sono, ripeto, però ha ancora probabilmente la possibilità di offrire degli sbocchi anche lavorativi interessanti. L'albo sta maturando l'idea di offrire a dei giovani che abbiano più di 18 anni, ovviamente con una patente di guida in tasca, offrire loro la possibilità di diventare dei conducenti professionisti attraverso un percorso formativo pagato dall'albo, quindi con un costo minimo per chi parteciperà e con la possibilità di poter venire in possesso della patente, cosiddetta patente professionale, la CQC, che sul mercato sta stentando a decollare per tutti i motivi che dicevo prima, non ultimo anche un problema di costo. C'è un problema di costo, c'è un problema di poco interesse a questa professione. Ecco, noi vorremmo in qualche maniera, come albo, rimettere al centro, no, la figura del conducente, che è sempre più un professionista, dovrà essere sempre più un professionista, e per il quale appunto faremo questa sperimentazione di mettere dei fondi per consentire a un migliaio di giovani di avvicinarsi a questa professione. E ovviamente noi seguiremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche l'evoluzione di questo progetto. Faggi, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora tempo per una battuta che riguarda le quote dell'albo. C'è stata un'importante novità qualche settimana fa, è stata decisa la sospensione di queste quote per tutte le imprese che risiedono nelle zone terremotate e quindi che hanno subito dei danni. Sì, questa è stata una decisione importante, doverosa io credo, perché ovviamente in quella realtà le imprese sono tutte in grande affanno, in grande difficoltà, e andare anche a liberarle della quota in questo momento non era certamente il caso. Sulle quote l'albo ha deciso di mantenere inalterate le quote del 2016, che sono poi le stesse del 2015, nel senso che da diversi anni non vengono ritoccate, e le quote servono sostanzialmente per dare gambe ai progetti che il comitato va ad approvare. Nella discussione dell'approvazione delle quote quest'anno c'è stata una polemica, direi non bella, che non fa onore a mio avviso alle associazioni che l'hanno promossa. Si è in qualche misura cercato di ridurre le quote dell'albo, che, badate bene, sono pochissima cosa. Una impresa con un auto articolato paga 55 euro di quota all'anno, se di auto articolati ne ha 10 ne paga 250 di euro in un anno. È stata fatta la proposta da qualcuno di ridurre per mandare un segnale alle imprese che sono in difficoltà. Io credo che sia stato un approccio assolutamente sbagliato questo, perché ridurre di un 10, di un 20% una quota di 250 euro ad un'impresa che ha 10 autoarticolati, che mediamente fattura da 1 milione a 1,5 milioni di euro, io la considero una presa in giro, sinceramente. Non risolve nessun problema economico di quella impresa, ammesso che poi ne abbia. Dall'altro lato, però, introdurre questo principio avrebbe significato mettere l'albo in grande difficoltà, e quindi con la necessità di tagliare tutta una serie di attività, fra cui questa dello sviluppo della regolarità, della verifica della regolarità delle imprese. Allora, si vuole tagliare all'albo la possibilità di andare a fondo in questi compiti che la legge gli ha assegnato? Ecco, io credo che prima di avanzare proposte come questa di ridurre le quote, sarebbe stato utile riflettere un pochino più a fondo